vampiro, l'altra faccia dell'amore, la tua vita respiro, sento i battiti del tuo cuore, nel tuo sangue ho il piacere, nel tuo corpo ho l'amore, il tuo rosa candore, come ritmico blues, il tuo sangue batte nel mio cuore, perché io sono il vampiro.